E adesso, al mio secondo ritorno a Parigi, già il giorno dopo l'arrivo avevo ricevuto una nuova lettera di Gilbert, che certamente aveva dimenticato quella da me riportata, o perlomeno il suo senso, visto che la sua partenza da Parigi alla fine del 1914 vi era rappresentata retrospettivamente in modo assai diverso. «Voi forse non sapete, caro amico», mi diceva, «che da quasi 2 anni sono a Tansonville. Ci sono arrivata contemporaneamente ai tedeschi. Tutti avevano cercato di impedirmi di partire. Mi trattavano da pazza. Ma come?» mi dicevano. «Siete al sicuro a Parigi e la lasciate per quelle zone invase proprio nel momento in cui tutti cercano di fuggirne?» Non sottovalutavo quanto c'era di giusto in questo ragionamento. «Ma cosa volete? Ho un'unica qualità. Non sono vile o, se preferite, sono fedele. E quando ho saputo che la mia cara Tansonville era minacciata, non ho voluto che il nostro vecchio intendente restasse solo a difenderla. Mi è sembrato che il mio posto fosse al suo fianco. E, del resto, è stato grazie a questa decisione che ho potuto, dal più almeno, salvare il castello, mentre tutti gli altri del circondario, abbandonati dai proprietari in preda al panico, sono stati quasi tutti distrutti da cima a fondo. E non soltanto il castello ho salvato, ma anche le preziose collezioni alle quali il mio caro papà teneva tanto.» In una parola, adesso Gilbert era convinta di non essere andata a Tansonville, come mi aveva scritto nel 1914, per sfuggire ai tedeschi e mettersi al riparo, ma al contrario, per andar loro incontro e difenderne il suo castello. D'altronde non c'erano rimasti a Tansonville, ma Gilbert non aveva più smesso d'avere per casa un andirivieni costante di militari assai superiore a quello che faceva piangere Françoise per le strade di Combray, di condurre, come aggiungeva in modo stavolta affatto veridico, la vita del fronte. Così nei giornali si riferiva con i più alti elogi il suo ammirevole comportamento e si parlava di decorarla. La fine della lettera era del tutto esatta. «Non avete idea, mio caro, di cosa sia questa guerra e dell'importanza che vi assume una strada, un ponte, un'altura. Quante volte ho pensato a voi, alle passeggiate, grazie a voi deliziose, che facevamo insieme in tutti quei luoghi oggi devastati, mentre si svolgevano immani combattimenti per il possesso di quel certo sentiero, di quel certo poggio che amavate tanto, dove siamo andati tante volte insieme. Anche voi, come me, probabilmente non immaginavate che l'oscura Rue Senneville e la noiosa Méséglise da cui ci portavano la posta e dove si mandò a chiamare il medico quando stavate poco bene sarebbero diventate dei luoghi celebri. Ebbene, mio caro, sono entrate per sempre nella gloria, allo stesso titolo di Austerlitz o di Valmy. La battaglia di Méséglise è durata più di 8 mesi. I tedeschi vi hanno perduto più di 600.000 uomini. Hanno distrutto Méséglise, ma non l'hanno presa. Il sentiero che amavate tanto, che chiamavamo la scorciatoia dei biancospini, e dove sostenete di esservi innamorato da bambino di me, mentre io vi assicuro in tutta verità che ero io a essere innamorata di voi, non so dirvi quanto è diventato importante l'immenso campo di grano a cui conduce è la famosa quota 307, di cui sicuramente nei bollettini avete visto così spesso ricorrere il nome. I francesi hanno fatto saltare il ponticello sulla Vivonne che, dicevate, non vi ricordava la vostra infanzia quanto avreste voluto. I tedeschi ne hanno gettati altri. Per 1 anno e mezzo una metà di Combray è stata loro, mentre l'altra metà era dei francesi. Il giorno dopo aver ricevuto questa lettera, ossia 2 giorni prima di quello in cui, camminando nell'oscurità, sentendo risuonare i miei passi, rimuginavo tutti questi ricordi. Saint-Lieu, arrivato dal fronte e sul punto di tornarvi, mi aveva fatto una visita di pochi minuti, il cui solo annuncio mi aveva violentemente commosso. Françoise avrebbe voluto precipitarsi su di lui, sperando che potesse far riformare il timido garzone macellaio la cui classe doveva partire l'anno successivo, ma fu trattenuta dal pensiero che quel passo sarebbe stato inutile, visto che da un bel po' di tempo il timido uccisore d'animali aveva cambiato macelleria. E la nostra, o per timore di perderci come clienti, o in buona fede, dichiarò a Françoise di ignorare dove fosse stato assunto quel garzone, il quale, d'altronde, non sarebbe mai diventato un buon macellaio. Françoise allora l'aveva cercato dappertutto, ma Parigi è grande, le macellerie numerose, e pur visitandone parecchie, non era riuscita a rintracciare il timido e sanguinario giovane. Quando Saint-Louis era entrato in camera mia, m'ero accostato a lui con quel senso di timidezza, con quell'impressione di soprannaturale che davano, in fondo, tutti i militari in permesso, e che proviamo ogni volta che andiamo a trovare una persona affetta da una malattia mortale, che tuttavia si alza, si veste, va ancora a passeggio. Sembrava, era sembrato soprattutto agli inizi, perché per chiunque non fosse vissuto come me, lontano da Parigi, era sopravvenuta l'abitudine, che dalle cose viste parecchie volte elimina alla radice l'impressione profonda e il pensiero che costituiscono il loro senso reale. Sembrava quasi che vi fosse qualcosa di crudele in quei permessi dati ai combattenti. Sulle prime si pensava: non vorranno ripartire, diserteranno. E in effetti non venivano soltanto da luoghi che ci sembravano irreali perché ne avevamo sentito parlare esclusivamente dai giornali e non potevamo immaginare che si fosse potuto prendere parte a quei combattimenti titanici e tornarne con appena una contusione alla spalla. Era dalle rive della morte a cui avrebbero fatto ritorno che essi venivano per un istante fra noi, a noi, incomprensibili, riempiendoci di tenerezza, di spavento e d'un senso di mistero, come quei morti che evochiamo, che ci appaiono un attimo, che non osiamo interrogare e che d'altronde potrebbero tutt'al più risponderci. Voi non potete immaginare. È incredibile, infatti, fino a che punto, in quegli scampati al fuoco che sono i militari in licenza, come nei vivi o nei morti che un medium ipnotizza o evoca, il solo effetto del contatto con il mistero sia di rendere, se possibile, ancora più insignificanti i discorsi. Fu così che m'accostai a Robert, il quale aveva ancora sulla fronte una cicatrice più augusta e più misteriosa per me dell'impronta lasciata sulla terra dal piede d'un gigante. E non avevo osato fargli domande, e lui non m'aveva detto che parole qualsiasi. Parole ben poco diverse da ciò che sarebbero state prima della guerra, come se le persone, loro malgrado, continuassero ad essere quello che erano. Il tono delle conversazioni era lo stesso, solo gli argomenti differivano, e neanche tanto. Mi sembrò di capire che aveva trovato nell'esercito delle risorse grazie alle quali aveva a poco dimenticato come Morel si fosse comportato altrettanto male con lui che con suo zio. Serbava tuttavia per lui una grande amicizia ed era preso da repentini desideri di rivederlo che rimandava di continuo. Mi parve più delicato nei confronti di Gilbert non segnalare a Robert che per incontrare Morel sarebbe bastato che andasse dai Verdurin. Dissi con umiltà a Robert quanto poco si sentisse la guerra a Parigi. Mi rispose che anche a Parigi a volte era abbastanza incredibile. Alludeva a un'incursione di Zeppelin che c'era stata la notte prima e mi chiese se non l'avessi vista, ma come in altri tempi mi avrebbe parlato di uno spettacolo di grande bellezza estetica. Al fronte si può ancora capire che vi sia una sorta di civetteria nel dire «è stupendo, che rosa!» E quel verde pallido, mentre si può essere uccisi da un momento all'altro. Ma era inconcepibile che Saint-Louis lo facesse a Parigi, a proposito di un'incursione insignificante che tuttavia, dal nostro balcone, in quel silenzio notturno, dove di colpo c'era stata una festa vera, con razzi utili e protettori, con sirene d'allarme che non erano soltanto per finta, eccetera. Gli parlai della bellezza degli aerei che salivano nella notte, e ancora di più, forse, di quelli che scendono, mi disse. Ammetto che è molto bello quando salgono, quando stanno per fare costellazione e obbediscono in questo a leggi non meno precise di quelle che reggono le costellazioni, giacché quello che ti sembra uno spettacolo è il convergere delle squadriglie, i comandi che ricevono, la loro partenza in caccia, eccetera. Ma non ti piace ancora di più il momento in cui, definitivamente assimilati alle stelle, se ne distaccano per andare in caccia o per rientrare dopo il cessato allarme, il momento in cui fanno apocalisse e nemmeno le stelle stanno più al loro posto? E le sirene? Abbastanza wagneriane, no? Il che, del resto, era assolutamente naturale per salutare l'arrivo dei tedeschi, faceva molto inno nazionale, con il Kronprinz e le principesse nel parco imperiale, Wacht am Rhein. C'era da chiedersi se ad andar su erano degli aviatori o non piuttosto delle valchirie. Sembrava compiacersi di questa equiparazione fra aviatori e valchirie, che spiegò, d'altronde, con ragioni puramente musicali. Diamine! La musica delle sirene faceva talmente cavalcata! Decisamente! Dovevano arrivare i tedeschi per poter sentire un po' di Wagner a Parigi! Sotto certi punti di vista, del resto, il paragone non era sbagliato. Dal nostro balcone la città appariva come un unico luogo fluido, informe e nero, che dalle profondità e dalla notte passava di colpo nella luce e nel cielo, dove gli aviatori si lanciavano a uno all'appello lacerante delle sirene, mentre, con un movimento più lento ma più insidioso, più allarmante, giacché il loro sguardo faceva pensare all'oggetto ancora invisibile, forse già vicino, che stava cercando, i riflettori si spostavano senza posa, fiutando il nemico, accerchiandolo con le loro luci finché gli aerei, indirizzati su di lui, scattavano in caccia per ghermirlo. E squadriglia dopo squadriglia, ogni aviatore si lanciava così dalla città, trasportata ora nel cielo simile a una valchiria. Tuttavia, qualche angolo della terra, all'altezza delle case, si illuminava. E io dissi a Saint-Luc che se fosse stato a casa la sera prima, avrebbe potuto, mentre contemplava l'apocalisse nel cielo, vedere sulla terra, come nel funerale del conte di Orgaz, del Greco, dove i diversi piani sono paralleli, un vero vaudeville recitato da personaggi in camicia da notte, che, a causa dei loro nomi celebri, avrebbero meritato d'essere segnalati a qualche successore di quel Ferrari, le cui note mondane ci avevano così spesso divertiti, Saint-Luc e me, che ci divertivamo a inventarne per noi stessi. Ed è ciò che facemmo anche quel giorno, come se non ci fosse la guerra, sebbene su un argomento alla guerra molto attinente, la paura degli Zeppelin. Notati, la duchessa di Guermantes, splendida in camicia da notte, il duca di Guermantes, inenarrabile in pigiama rosa e accappatoio, eccetera, eccetera. Sono sicuro, mi disse Robert, che in tutti i grandi alberghi si saranno viste le ebree americane in camicia stringere sui seni avvizziti la collana di perle che consentirà loro di sposare qualche duca spiantato. Il Ritz in queste sere deve assomigliare all'albergo del libero scambio.